Un quarto alle tre, c'è una mosca su una lampada LED, gli occhi vogliono andarsene, ma il mio cuore è in movimento e penso che il mio stomaco si imbriciole, cerca un paio di coccole. Gli regalo una caramella e non basterà neanche quella. Sono stato abituato male con te. Solo un'altra canzone, poi cancellerò il tuo nome per sempre ed un'ultima volta. Ti porterò con me. Insieme tra sette notine danzeremo per sempre, poi basta. E ogni volta che suonerò questa nota sarai vicino a me. C'è una macchia microscopica nel tuo bulbo oculare, non è nulla, non devi farti controllare, sono io quella macchia grigia, fissa in ogni cosa che fissi, la mia testa è come un girasole, non si alza più, solo un'altra canzone. Cancellerò il tuo nome per sempre ed un'ultima volta ti porterò con me.